Ad alta voce, Peppe Servillo legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. Quando José Arcadio II si svegliò, era disteso supino nel buio. Si accorse che stava viaggiando su un treno interminabile e silenzioso e che aveva i capelli appiccicati dal sangue secco e che gli dolevano tutte le ossa. Provò una tremenda stanchezza, con una voglia di dormire per ore e ore, al sicuro dal terrore e dall'orrore. Si accomodò sul lato che gli faceva meno male e soltanto allora scoprì d'essere sdraiato sui morti. Non c'era uno spazio libero nel vagone, tranne il corridoio centrale. Dovevano essere trascorse parecchie ore dal massacro, perché i cadaveri avevano la temperatura del gesso in autunno e la sua stessa consistenza di schiuma pietrificata. E coloro che li avevano messi nel vagone avevano avuto il tempo di stivarli nell'ordine e nel senso con cui si trasportano i caschi di banane. Cercando di sfuggire all'incubo, José Arcadio II si trascinò di vagone in vagone nella direzione verso la quale avanzava il treno. E nei lampi di luce che divampavano tra le assi di legno, quando passavano per i villaggi addormentati, vedeva i morti uomini, i morti donne, i morti bambini, destinati a essere gettati in mare come le banane di scarto. Riconobbe soltanto una donna che vendeva rinfreschi in piazza e il colonnello Gavilan, che teneva ancora stretto nella mano il cinturone con la fibbia d'argento, col quale aveva cercato di aprirsi la strada attraverso il panico. Quando arrivò nel primo vagone, fece un salto nel buio e rimase disteso nella cunetta finché il treno non fu passato del tutto. Era il treno più lungo che aveva mai visto, con quasi 200 carri merci e una locomotiva a ogni estremo, una terza nel centro. Non aveva nessuna luce, nemmeno i fanali verdi e rossi di posizione, e scivolava a una velocità notturna e furtiva. Sopra il tetto dei carri si vedevano le masse scure dei soldati con le mitragliatrici piazzate. Dopo mezzanotte scrosciò un acquazzone torrenziale. José Arcadio II ignorava dove era saltato, ma sapeva che camminando in senso contrario a quello del treno sarebbe arrivato a Macondo. Dopo più di 3 ore di marcia, inzuppato fino alle ossa, con un terribile mal di testa, scorse le prime case alla luce dell'alba. Attratto dall'odore del caffè, entrò in una cucina dove una donna con un bambino in braccio era curva sul focolare. «Giorno», disse esausto, «sono José Arcadio II». José Arcadio II Buendía. Pronunciò il nome completo, spiccicando ogni sillaba, per convincersi di essere vivo. Fece bene, perché la donna aveva pensato che fosse un fantasma, vedendo sulla porta la figura squallida, oscura, con la testa e i vestiti sporchi di sangue. E toccata dalla solennità della morte, lo conosceva. Portò una coperta perché vi si avvolgesse mentre gli asciugava la roba vicino al focolare. Gli scaldò l'acqua perché si lavasse la ferita, che era solo una lacerazione della pelle, e gli diede una fascia pulita perché si bendasse la testa. Poi gli offrì una ciotola di caffè senza zucchero, come le avevano detto che lo bevevano i Buendía, e sciorinò la roba vicino al fuoco. José Arcadio II non parlò finché non ebbe bevuto il caffè. «Dovevano essere un 3.000», mormorò. «Cosa?» «I morti», spiegò lui. «Dovevano essere tutti quelli che erano nella stazione». La donna lo guardò con un'occhiata di compassione. «Qui non ci sono stati morti», disse. «Dai tempi di tuo zio, il colonnello. Non è successo nulla a Macondo». In tre cucine dove si fermò José Arcadio II prima di arrivare a casa, gli dissero la stessa cosa. Non ci sono stati morti. Attraversò la piazzetta della stazione e vide i banchi di frittelle ammucchiati l'uno sull'altro. E nemmeno lì trovò traccia alcuna del massacro. Le strade erano deserte sotto la pioggia tenace e le case sbarrate, senza vestigia di vita interna. L'unica nota umana era il primo rintocco della messa. Bussò alla porta del colonnello Gavilan. Una donna incinta, che aveva visto parecchie volte, gli chiuse la porta in faccia. «Se n'è andato», disse spaventata. «È tornato alla sua terra». L'entrata principale della caponaia elettrificata era custodita, come sempre, da due poliziotti locali, che sembravano di pietra sotto la pioggia, con impermeabili e caschi di tela cerata. Nella loro viuzza secondaria, i negri antigliani cantavano in coro i salmi del sabato. José Arcadio II scavalcò il muro del patio ed entrò in casa per la cucina. Santa Sofia della Pietad alzò appena la voce. «Che non ti veda Fernanda», disse. «Poco fa si stava alzando». Come si compiesse un fatto implicito, portò suo figlio nella stanza dei pitali. Gli preparò la sgangherata branda di Melchiades e alle 2 del pomeriggio, mentre Fernanda faceva la siesta, gli passò dalla finestra un piatto di cibo. Aureliano II aveva dormito nella casa perché lì lo aveva sorpreso la pioggia e alle 3 del pomeriggio stava ancora aspettando che spiovesse. Informato segretamente da Santa Sofia della Pietad, a quell'ora andò a trovare suo fratello nella stanza di Melchiades. Nemmeno lui credette alla versione del massacro e all'incubo del treno carico di morti diretto verso il mare. La notte precedente avevano letto un proclama nazionale straordinario che informava che gli operai avevano ubbidito all'ordine di evacuare la stazione e si dirigevano verso le loro case in carovane pacifiche. Il proclama informava altresì che i dirigenti sindacali, con un elevato spirito patriottico, avevano ridotto le loro petizioni a 2 punti: riforma dei servizi medici e costruzione di latrine negli accampamenti. Si comunicò più tardi che quando le autorità avevano avuto il benestare dei lavoratori, si erano affrettate a comunicarlo al signor Brown e che questi non solo aveva accettato le nuove condizioni, ma aveva inoltre offerto di pagare 3 giorni di festeggiamenti pubblici per celebrare la fine del conflitto. Solo che quando i militari gli chiesero per che data si poteva annunciare la firma dell'accordo, il nordamericano guardò attraverso la finestra il cielo solcato di fulmini e fece un profondo gesto di incertezza. «Sarà per quando spiova», disse. «Fino a che durerà la pioggia, sospenderemo ogni sorta di attività». Non pioveva da circa 3 mesi ed era tempo di secca. Ma quando il signor Brown annunciò la sua decisione, scrosciò in tutta la zona bananiera l'acquazzone torrenziale che aveva colto José Arcadio II sulla strada per Macondo. Una settimana dopo pioveva ancora. La versione ufficiale, 1000 volte ripetuta e ribattuta in tutto il paese, con quanti mezzi di divulgazione fossero alla portata del governo, finì per imporsi. Non c'erano stati morti. I lavoratori soddisfatti erano tornati alle loro famiglie e la compagnia bananiera avrebbe sospeso le sue attività finché fosse durata la pioggia. La legge marziale continuava, in previsione che fosse necessario applicare misure di emergenza a causa della calamità pubblica dell'acquazzone interminabile, ma la truppa era casermata. Durante il giorno i militari diguazzavano per i torrenti delle strade, coi pantaloni arrotolati a mezza gamba, giocando ai naufragi coi bambini. Di notte, dopo il coprifuoco, sfondavano le porte col calcio del fucile. Gettavano fuori dal letto le persone sospette e se le portavano via per un viaggio senza ritorno. Era ancora la ricerca e lo sterminio dei malfattori, degli assassini, incendiari e rivoltosi del decreto numero 4. Ma i militari lo negavano agli stessi parenti delle loro vittime, che affollavano l'ufficio dei comandanti in cerca di notizie. Sarà stato solo un sogno, insistevano gli ufficiali. A Macondo non è successo nulla, né sta succedendo né succederà mai nulla. Questo è un villaggio felice. Così consumarono lo sterminio dei capi sindacali. L'unico sopravvissuto era José Arcadio II. In una notte di febbraio si udirono alla porta i colpi inconfondibili dei calci dei fucili. Aureliano II, che continuava ad aspettare che spiovesse per uscire, fece entrare 6 soldati al comando di un ufficiale. Inzuppati di pioggia, senza pronunciare una parola, perquisirono la casa stanza dopo stanza, armadio dopo armadio, dai salotti al granaio. Ursula si svegliò quando accesero la luce nella stanza e non esalò un solo sospiro fin tanto che durò la perquisizione, ma mantenne le dita in croce, dirigendole verso i luoghi dove i soldati si muovevano. Santa Sofia della Pietad riuscì ad avvertire José Arcadio II che dormiva nella stanza di Melchiades, ma lui comprese che era troppo tardi per tentare la fuga. Di modo che Santa Sofia della Pietad tornò a chiudere la porta e lui si infilò la camicia e le scarpe e si sedette sulla branda ad aspettare che arrivassero. In quel momento stavano perquisendo il laboratorio di oreficeria. L'ufficiale aveva fatto aprire il lucchetto e con una rapida sventagliata della lanterna aveva visto il banco di lavoro e la vetrina con le bottiglie degli acidi e gli strumenti che si trovavano ancora nello stesso posto in cui li aveva lasciati il loro padrone. E parve capire che in quella stanza non viveva nessuno. Tuttavia, chiese astutamente ad Aureliano II se si occupasse di oreficeria e lui gli spiegò che quello era stato il laboratorio di Aureliano Buendía. «Ah», fece l'ufficiale, e accese la luce e ordinò una perquisizione così minuziosa che non gli sfuggirono i 18 pesciolini d'oro non ancora fusi e che erano stati nascosti dietro le bottiglie nel barattolo di latta. L'ufficiale li esaminò uno ad uno sul banco di lavoro e allora si umanizzò completamente. «Vorrei portarmene via uno, se lei lo permette», disse. «Un tempo erano la parola d'ordine di una sommossa, ma ora sono solo una reliquia». Era giovane, quasi un adolescente, senza alcuna traccia di timidezza e dotato di una simpatia naturale che non gli si era notata fino allora. Aureliano II gli regalò il pesciolino. L'ufficiale lo ripose nel taschino della camicia, con un lampo infantile nello sguardo, e mise gli altri nel barattolo che ricollocò al suo posto. «È un ricordo di valore incalcolabile», disse. «Il colonnello Aureliano Buendía è stato uno dei nostri più grandi uomini». Tuttavia, l'impeto di umanità non modificò la sua condotta professionale. Davanti alla stanza di Melchiades, anche questa chiusa col lucchetto, Santa Sofia della Pietad ricorse a un'ultima speranza. «È quasi un secolo che in quella stanza non vive nessuno», disse. L'ufficiale la fece aprire, vi scrutò dentro con l'alone della lanterna e Aureliano II e Santa Sofia della Pietad videro gli occhi arabi di José Arcadio II nel momento in cui passò sul suo viso il lampo di luce e compresero che quella era la fine di un'ansia e il principio di un'altra che avrebbe trovato pace soltanto nella rassegnazione. Ma l'ufficiale continuò a esaminare la stanza con la lanterna e non diede alcuna mostra di interesse finché non scoprì i 72 epitali ammucchiati negli armadi. Allora accese la luce. José Arcadio II era seduto sull'orlo della branda, pronto per uscire, più solenne e pensieroso che mai. In fondo c'erano gli scaffali coi libri scuciti, i rotoli di pergamena e il tavolo da lavoro pulito e ordinato. E ancora fresco l'inchiostro nei calamai. C'era la stessa purezza nell'aria, la stessa diafanità, lo stesso privilegio contro la polvere e la distruzione che aveva conosciuto Aureliano II nell'infanzia e che soltanto il colonnello Aureliano Buendía non aveva potuto percepire. Ma l'ufficiale si incuriosì soltanto dei pitali. «Quante persone vivono in questa casa?» chiese. «5». L'ufficiale evidentemente non capì. Si soffermò con lo sguardo nello spazio dove Aureliano II e Santa Sofia della Pietad continuavano a vedere José Arcadio II. E anche questi si rese conto che il militare lo stava guardando senza vederlo. Poi spense la luce e tirò a sé la porta. Sentendolo parlare coi soldati, Aureliano II capì che il giovane militare aveva visto la stanza con gli stessi occhi coi quali l'aveva vista il colonnello Aureliano Buendía. «È vero che nessuno deve essere entrato in quella stanza perlomeno da un secolo», disse l'ufficiale ai soldati. «Ci devono essere perfino i serpenti». Quando la porta si chiuse, José Arcadio II ebbe la certezza che la sua guerra era terminata. Qualche anno prima, il colonnello Aureliano Buendía gli aveva parlato del fascino della guerra e aveva cercato di dimostrarlo con innumerevoli esempi tirati dalla sua stessa esperienza. Lui gli aveva creduto, ma la notte in cui i militari lo avevano guardato senza vederlo, mentre pensava alla tensione degli ultimi mesi, alla miseria del carcere, al panico della stazione e al treno carico di morti, José Arcadio II giunse alla conclusione che il colonnello Aureliano Buendía non era stato altro che un commediante o un imbecille. Non capiva perché fossero state necessarie tante parole per spiegare quello che si provava in guerra, quando ne bastava solo una: paura. Nella stanza di Melchiades, invece, protetto dalla luce sovrannaturale, dal rumore della pioggia, dalla sensazione di essere invisibile, trovò la quiete che non aveva avuto per un solo istante nella sua vita anteriore. E l'unica paura che rimaneva in lui era quella che lo seppellissero vivo. Lo disse a Santa Sofia della Pietad e lei gli promise di lottare per rimanere viva al di là delle proprie forze, in modo da essere certa che lo seppellissero morto. Al sicuro di ogni timore, José Arcadio II si dedicò allora a ripassare parecchie volte le pergamene di Melchiades e con tanto più gusto quanto meno le capiva. Abituato al rumore della pioggia, che dopo un paio di mesi si trasformò in una forma nuova di silenzio, le uniche cose che turbavano la sua solitudine erano le entrate e le uscite di Santa Sofia della Pietad. Alla fine la supplicò di lasciargli il piatto col cibo sul davanzale della finestra e di richiudere la porta col lucchetto. Il resto della famiglia lo dimenticò, inclusa Fernanda, che non vide alcun inconveniente nel lasciarlo lì, una volta saputo che i militari lo avevano visto senza conoscerlo. Dopo 6 mesi di clausura, e dato che i militari se ne erano andati da Macondo, Aureliano II tolse il lucchetto, in cerca di qualcuno col quale poter scambiare 4 chiacchiere, fin tanto che non fosse cessata la pioggia. Non appena aprì la porta, si sentì aggredito dalla pestilenza dei pitali che erano collocati per terra e tutti usati parecchie volte. José Arcadio II, divorato dal tannino, indifferente all'aria rarefatta dai vapori nauseabondi, continuava a leggere e a rileggere le pergamene inintellegibili. Era illuminato da un chiarore serafico. Alzò appena gli occhi quando sentì aprirsi la porta, ma a suo fratello bastò quello sguardo per vedervi ripetuto il destino irreparabile del bisnonno. Erano più di 3.000. Fu tutto quanto disse José Arcadio II. «Ora sono sicuro. Erano tutti quelli che si trovavano nella stazione». Piovve per 4 anni, 11 mesi e 2 giorni. Ci furono epoche di pioviscolo durante le quali tutti si imposero i loro vestiti di pontificale e si composero una faccia di convalescente per festeggiare la spiovuta. Ma ben presto si abituarono a interpretare le pause come annunci di rincrudimento. Si disselciava il cielo con tempeste di strepito, e il nord mandava uragani che sguarnirono tetti e sfondarono pareti e sradicarono le ultime ceppate delle piantagioni. Come era successo durante la peste dell'insonnia, che Ursula si trovò a ricordare proprio in quei giorni, la calamità andava ispirando difese contro il tedio. Aureliano II fu uno di quelli che più si diedero da fare per non lasciarsi vincere dall'ozio. Era tornato nella casa per non si sa quale faccenda la sera in cui il signor Brown aveva evocato la tormenta e Fernanda aveva cercato di soccorrerlo con un parapioggia mezzo sbacchettato rinvenuto in un armadio. «Non occorre», disse lui. «Rimango qui finché spioverà». Non era naturalmente un impegno ineluttabile, ma fu sul punto di mantenerlo alla lettera. Dato che la sua roba era in casa di Petra Cotes, si toglieva ogni 3 giorni quella che portava addosso e aspettava in mutande che gliela lavassero. Per non annoiarsi, si dedicò al compito di sistemare le numerose magagne della casa. Aggiustò cerniere, lubrificò serrature, avvitò battenti e livellò porte. Per parecchi mesi lo si vide vagare con una scatola di utensili che dovevano aver dimenticato gli zingari ai tempi di José Arcadio Buendía. E nessuno seppe se fu per la ginnastica involontaria, per il tedio invernale o per l'astinenza obbligata che la pancia gli si andò sgonfiando a poco come un'otre. E la faccia di tartaruga beatifica gli si fece meno sanguigna e meno protuberante la pappagorgia e in complesso finì per essere meno pachidermico e riuscì di nuovo ad annodarsi i lacci delle scarpe. Vedendolo montare saliscendi e smontare orologi, Fernanda si chiese se non stesse forse incappando anche lui nel vizio di fare per disfare, come il colonnello Aureliano Buendía coi pesciolini d'oro, Amaranta coi bottoni il sudario, José Arcadio II con le pergamene e Ursula coi ricordi. Ma non fu così. Il male era che la pioggia scombinava ogni cosa e nelle macchine più aride spuntavano fiori tra gli ingranaggi se non venivano lubrificati ogni 3 giorni e si ossidavano i fili dei broccati e nascevano filetti di zafferano sulla roba bagnata. L'atmosfera era così umida che i pesci sarebbero potuti entrare dalle porte e uscire dalle finestre, nuotando nell'aria delle stanze. Una mattina Ursula si svegliò sentendo che stava esaurendosi in un deliquio di placidezza e aveva già chiesto che le facessero venire padre Antonio Isabel, magari Lettiga, quando Santa Sofia della Pietà scoprì che aveva la schiena piastrellata di sanguisughe. Gliele staccarono una a una, bruciacchiandole coi tizzoni, prima che finissero di dissanguarla. Fu necessario scavare canali per prosciugare la casa e sbarazzarla dai rospi e dalle lumache, di modo che si potessero asciugare i pavimenti e togliere i mattoni da sotto le gambe dei letti e camminare di nuovo con le scarpe.